everybody obeyed all together now. Il mio amore, nonostante qualche dissapore, se ti faccio in faccia c'è il mio del saldatore, so che capirai. Settembrini, no, quelli che noi li chiamiamo sono settembrini, quelli che ci fanno le ferie da furbetti. Non è il caso perché ancora c'è caldo, con i prezzi un po' più bassi, e con molta meno gente in giro, e trovano posto ovunque. E per me sono le mie ferie fatte meglio. Io le ho fatte a settembre, non ti nascondo che, non ti nego che sono belle. Poco traffico, puoi andare dove vuoi, le spiagge sono abbastanza libere, transitabili, niente, si sta bene, va? Sì, sta bene, sì, è vero. Va bene, io ti lascio, devo fare la luce, vai. Grazie del piccolo corso. Ok. Ciao Eugenio, piacere mi ha fatto ascoltarti, già ci ascoltiamo le prossimine, dai. Sono stato fatti solo per salutarti. Ciao, buona cena, buon tutto alle prossime, ciao. E ricambio tutto quanto a 380. Sempre un piacere sentirti. Ciao, a domani, se coincide. Ciao. Ciao Eugenio, ciao alle prossime.